GR24, il sole 24 ore. Draghi pronti a tutto per l'euro. Piazza Affari schizza in alto, spread sotto quota 500. Spending review in arrivo 800 milioni ai comuni. Tutto è pronto per le Olimpiadi di Londra 2012. Secondo Draghi, i paesi dell'area euro hanno fatto grandi progressi e l'eurozona ha il potere per sconfiggere la speculazione sui mercati. E sentiamo da Deborah Rosciani come hanno reagito appunto i mercati finanziari alle parole di Mario Draghi. Alla prima frase di Mario Draghi, le borse europee hanno preso a correre e nel giro di praticamente 45 minuti da un territorio negativo, quello in cui si trovava Milano, siamo passati a più 3% sul FTSE MIB con le banche che hanno letteralmente spiccato il volo. Intesa più 6 Unicredit, più 5,75 Mediolanum, più 5,35 Popolare dell'Emilia Romagna, più 4,64. Anche l'euro ha preso il volo, da 1,2117 che era il minimo toccato questa mattina siamo arrivati a 1,2236. Molto bene anche le altre piazze europee, ma c'è da dire che è Milano quella che beneficia di più delle parole del numero uno della Banca Centrale Europea. Parigi fa più 1,73, Francoforte più 0,59, Francoforte è stata anche negativa per oltre un punto stamattina, Londra più 0,54%. Ne ha risentito positivamente anche lo spread, più che positivamente, perché il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi, dopo aver toccato nei giorni scorsi addirittura 546 punti base, è sceso poco fa sotto i 500 a 497, è sceso anche sotto la soglia dei 600 punti base il differenziale fra i bonus spagnoli e il Bund. Da ricordare come ultima cosa che stamattina il Tesoro italiano ha collocato senza problemi 2 miliardi e mezzo di CTZ, una domanda molto robusta per questi titoli di Stato, oltre 4 miliardi, quasi 4 miliardi e mezzo chiesti dal mercato. I rendimenti sono leggermente saliti, ma niente di particolarmente preoccupante appunto rispetto all'ultima asta di giugno. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Spending review in arrivo 800 milioni ai comuni, in diretta Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, diverse le novità per il provvedimento di razionalizzazione della spesa pubblica a partire dai tempi parlamentari. Il testo atteso inizialmente in aula oggi al Senato resta invece ancora un giorno in Commissione Bilancio, questo con il consenso di tutti i capigruppo, vista la possibilità che siano introdotte delle modifiche. Queste potrebbero riguardare tra l'altro enti locali e farmacie. Nel primo caso arrivano 800 milioni di euro alle regioni che dovranno quindi cederli ai comuni ricadenti nel proprio territorio. Lo prevede un emendamento al decreto sulla spending review presentato dai relatori Fratin e Giaretta. Palazzo Chigi apre quindi alle farmacie accogliendo alcune richieste, a patto viene spiegato che i saldi restino invariati. Nelle agenzie fiscali, quella delle entrate in primis, arrivano invece fondi per oltre 13 milioni per il personale. 6 mesi in più si prevedono anche per la riduzione dei dirigenti e del personale, sia del Ministero dell'Interno che degli Esteri. Ricco infine il fronte dei commenti, in allarme le province. Italia, afferma il presidente dell'UPI Castiglione, sono tali da mettere a rischio i servizi essenziali ai cittadini a partire dalle scuole. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Continua lo scontro nella maggioranza sulla legge elettorale. Martedì notte sembrava cosa fatta, con il premio di maggioranza al primo partito, con leggi a base proporzionale, lo sbarramento al 5% e un 20-30% dei seggi attribuiti sulla base di listini bloccati. Poi ieri è saltato tutto. Nel servizio allora ricostruiamo 20 anni di mancato accordo tra i partiti in tema di legge elettorale. Era il 1997 quando D'Alema venne eletto presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, chiamata informalmente bicamerale. Sembrava l'inizio di un grande amore, tormentato sì, ma pur sempre un amore che poteva dare i suoi frutti. E invece si rivelò peggio di un calesse. Un anno e mezzo dopo, il 9 giugno del 98, la nota ufficiale della morte della bicamerale venne diramata dal presidente della Camera Violante. Così, qualche anno fa, D'Alema. La bicamerale voleva essere il tentativo di affrontare questo problema, che si è scontrato contro quelli che sono gli opposti estremismi. C'è una parte della sinistra che ha considerato un tradimento l'idea stessa che si potesse discutere, e dall'altra parte Berlusconi, che poi ha calato la saracinesca del niente. Fino al 93 il paese era andato alle urne con il proporzionale, datato 1946. Nello stesso anno, dopo il referendum di approvazione, arrivò il Mattarellum, sistema misto e un po' complicato, che ha comunque resistito fino al 2005, quando una nuova legge, voluta dalla maggioranza di Berlusconi e avversata dall'opposizione, fu presto ribattezzata Porcellum, definita una porcata dallo stesso ideatore, il leghista Calderoli. Nonostante ciò, un accordo non è mai arrivato e anche adesso che il paese è nelle secche di una crisi economica spaventosa, i partiti sono pronti a far saltare il tavolo, stretti tra la paura delle elezioni e la mancanza di un progetto politico. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora sentiamo l'analisi del politologo Gianfranco Pasquino. Ciascuno dei partiti, quando pensa di riformare la legge elettorale, intende favorire i suoi interessi, purtroppo di breve respiro, vale a dire quelli che potrà soddisfare nelle elezioni prossime venture 2013. Ciascuno di loro cerca anche di evitare di perdere alleati e quindi in subordine tiene conto degli interessi dei suoi potenziali alleati. In terzo luogo, nessuno dei partiti in realtà ha in mente correttamente che tipo di sistema politico vorrebbe avere e quindi alcuni vogliono una competizione bipolare e altri invece preferiscono avere una competizione fra più partiti e dunque vogliono quello che si chiama competizione multipolare. Mettere insieme tutti questi elementi risulta ovviamente difficilissimo. Sarebbe molto meglio se i partiti pensassero che in Europa ci sono due sistemi elettorali che funzionano bene, uno quello tedesco proporzionale e uno quello francese maggioritario a doppio turno in collegi uninominali e scegliessero fra quelli. Tutto è pronto per le Olimpiadi di Londra 2012. In diretta Dario Ricci, buongiorno. Sì, buongiorno da Westminster, dal cuore di Londra, qui a Casa Italia, dove c'è la presentazione di fatto della selezione azzurra, conferenza stampa del presidente, del Toni Petrucci e del segretario generale Pagnozzi. Si fanno un po' i conti delle medaglie che potremo vincere in uno scenario sempre più complesso e sempre più competitivo. Lo stesso Pagnozzi ha parlato con un pizzico d'enfasi di battaglia d'Inghilterra. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Petrucci, importante quella relativa alla commemorazione da parte della spedizione italiana delle vittime della strage di Monaco 1972, confermata la cerimonia di commemorazione, malgrado anche il diniego da parte del CIO del minuto di silenzio durante la cerimonia d'apertura di domani. Oggi poi l'arrivo del presidente Napolitano con i ministri Gnudi e Passera, nel pomeriggio la visita al villaggio olimpico e poi domani proprio la visita qui a Casa Italia. L'attesa è febbrile, i lavori anche, perché non tutto è perfetto, ma questa Olimpiade chiediamo soprattutto di essere umana e quindi in quel caso saremmo disposti anche a fare qualche sbavatura. Valentina, per la linea da Londra. Grazie a Dario Ricci, che continueremo ovviamente a sentire nei prossimi giorni. Ora il calcio scommesse, ecco i deferimenti per l'inchiesta di Cremona. Omessa denuncia per il tecnico bianconero Conte. Il difensore Bonucci rischia 3 anni per tentato illecito. Era atteso e alla fine il deferimento è arrivato, tutto sommato morbido. Il tecnico della Juventus, Antonio Conte, è stato deferito per omessa denuncia dal procuratore Palazzi. Si temeva che l'illecito contestato fosse più grave. La procura ha invece accolto le motivazioni della difesa di Conte, secondo la quale le accuse di Carobbio erano motivate da un risentimento personale. Ora Conte rischia una squalifica da 6 mesi a 1 anno, che con un eventuale patteggiamento potrebbe ridursi a 3 mesi. In totale la procura ha deferito alla commissione disciplinare 13 società e 44 tesserati, tra loro anche il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, accusato di illecito sportivo nel periodo in cui giocava nel Bari. Bonucci ora rischia 3 anni di stop, stessa accusa anche per Daniele Portanova e Andrea Masiello. Deferimento per omessa denuncia invece per Simone Pepe all'epoca dell'Udinese e per Marco Di Vaio all'epoca del Bologna. Le squadre del Lecce e del Grosseto sono state deferite per responsabilità diretta e rischiano la retrocessione in Lega Pro. Udinese, Bologna, Sampdoria, Siena e Torino sono state invece deferite per fatti addebitati a loro tesserati. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sabato Roberto Formigoni sarà interrogato dai magistrati di Milano e accusato di aver ricevuto 8,5 milioni in cambio dell'approvazione di 15 delibere a favore della Fondazione Maugeri nell'ambito dell'inchiesta Sanità Lombarda. Formigoni ha ribadito ieri che non si dimette, ma ecco i punti salienti dell'inchiesta. corrotto, questa l'ipotesi dei giudici, con benefit per un valore di circa 8 milioni e mezzo di euro dall'amico, ora in carcere, Pierangelo Daccò. Viaggi, vacanze, cene, gite in barca e un super sconto per l'acquisto di una villa da parte di un amico di Formigoni, in cambio di una quindicina di delibere di giunta sulle cosiddette funzioni non tariffabili, che nel giro di 10 anni avrebbero incrementato i rimborsi per le prestazioni sanitarie erogate dalla Fondazione Maugeri. Formigoni rimane anche iscritto per finanziamento illecito ai partiti, ma gli inquirenti al momento hanno deciso di contestargli in concorso, tra gli altri con Daccò, l'ex assessore Antonio Simone, il patrono della Fondazione Umberto Maugeri e l'ex direttore amministrativo Costantino Passerino, solo la corruzione, con l'aggravante della transnazionalità. Aggravante che sta a significare che i soldi spesi, il prezzo della presunta corruzione, sono transitati su conti esteri, in particolare svizzeri. A fare da canovaccio e le accuse mosse al governatore lombardo, l'informativa stesa dalla polizia giudiziaria e l'analisi dei provvedimenti della giunta e della direzione generale dell'assessorato lombardo alla sanità. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, il Sole 24 Ore. La Procura di Bologna chiede il rinvio a giudizio per falso ideologico per il presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. Secondo i magistrati, avrebbe fornito false informazioni su un finanziamento da 1 milione di euro ad una COP di cui era presidente il fratello. La notizia è pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Vasta operazione del nucleo Polizia Tributaria di Torino, coadiuvato da altre 26 reparti del corpo in 10 regioni italiane. Al centro dell'indagine una serie di fallimenti societari finalizzati a evasione fiscale. 12 gli indagati, 14 le società coinvolte, ma sentiamo il colonnello Filippo Bixio. Praticamente il meccanismo era questo. Dietro la capofila, che comunque tra virgolette schermata da soci di diritto estero, Svizzera e Gran Bretagna, le stesse persone fisiche sostanzialmente che sono indagate, pilotavano attraverso, mettendo delle teste di legno sempre in queste società della sicurezza, pilotavano i fallimenti. Però preventivamente si curavano di trasferire attraverso rami di azienda le componenti buone delle aziende, le componenti attive, quindi il personale, i mezzi, la clientela, eccetera, eccetera. Quindi rimanevano in queste società svuotate della parte buona che produceva reddito, rimanevano soltanto i debiti tributari. E noi fino ad oggi abbiamo calcolato attorno ai 24 milioni tra IVA e mancati versamenti. Prima di chiudere, un aggiornamento sull'andamento dello spread e delle borse. Dopo le parole di Draghi, spread ancora in discesa, il differenziale fra BTP e Bund è sceso a 480 punti, il differenziale fra Bund e Bonus a 571, la borsa di Milano brinda a più 3,66%. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.